Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Le borse intanto più 0,90% a Milano, più 0,70% a Parigi, più 1,20% a Francoforte, Londra negativa, euro sopra quota anche 1,28, 1,28,42. Devo dire che gli spread, quello italiano soprattutto, si sono leggermente mossi al rialzo, 370 punti, ma dall'Europa non arrivano notizie allarmanti, anzi. Il Wall Street Journal segnala oggi come i fondi americani si siano rimessi a comprare obbligazioni, titoli di Stato italiani e spagnoli dopo la decisione di giovedì scorso della Banca Centrale Europea, quindi quando Mario Draghi ha annunciato che comprerà, se necessario, titoli di Stato dei paesi in difficoltà, acquisti illimitati. Vedremo poi le condizioni che la BCE porrà. Dicevo, il Wall Street Journal cita manager dei fondi in Europa, di fondi americani che investono in Europa, ricordando come siano tornati a comprare debito italiano e spagnolo. Questa è una buona notizia. Devo dire che mi ha sorpreso anche le dichiarazioni del ministro alle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, uno dei falchi per definizione, oggi molto colomba. Dice infatti: attenzione, Atene ha fatto degli sforzi considerevoli sul deficit, la Grecia ha intrapreso sforzi considerevoli per ridurre il suo deficit, e poi il rapporto della Troica preciserà, la Troica vuol dire Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario, quali misure sono state applicate e soprattutto quali misure strutturali sono state applicate per ridurre debito e deficit. Però non Schäuble più colomba del solito, che ricorda anche come l'economia si stia indebolendo in tutta l'area euro e anche in Germania. Ha detto attenzione, anche la Germania è diventata un'economia più debole, anche se è resistente agli shock ed è capace di contrastare crisi non prevedibili. Il fronte italiano invece oggi vede le parole del Presidente del Consiglio Mario Monti alle parti sociali. L'incontro è iniziato da circa 20 minuti, l'incontro con Confindustria, sindacati, Rete Imprese per l'Italia, però già in mattinata alla Fiera di Milano aveva dichiarato le parti sociali devono fare di più, come il governo sta facendo il meglio che può per migliorare la situazione, esigiamo che imprese e sindacati facciano qualcosa di più. Monti ha ammesso, dopo il dato dell'Istat di ieri, che la situazione è peggiorata, ne abbiamo parlato ieri in diretta con il presidente dell'Istat, insomma il calo acquisito per il 2012 è già del 2,1%, probabilmente faremo un meno 2,6 entro fine anno se tutto va bene, si fa per dire. Il governo stimava un meno 1,2 dal punto di vista del calo del PIL, è brutto l'anno dopo il 2009, è il peggiore come andamento del PIL. Monti, dicevo, ha detto la congiuntura è peggiorata in parte anche in seguito alle azioni e alle decisioni del governo volte al risanamento, cioè alle misure, pensioni, ma soprattutto IMU e quant'altro. Però ha continuato Monti: solo uno stolto può pensare di incidere che dura su un male da decenni senza causare nel breve periodo un aggravamento della situazione. Noi ci aspettiamo, vorrei dire esigiamo a nome del Paese, dei cittadini e dell'interesse generale, che imprese e sindacati riescano a fare qualche cosa di più con il loro diretto e congiunto impegno. Per avere successo in questo campo serve lo sforzo congiunto e cooperativo delle parti sociali, che deve prevalere su particolarismi e contrapposizioni di tipo ideologico, ma sono sicuro che lo otterremo, perché questa crisi ha accresciuto in tutti il senso dell'appartenenza a qualcosa di più grande della singola parte. Come voi tutti sapete e mi insegnate, il tessuto è fatto di trama e ordito. Io credo che in ultima analisi forse sia ancora così in molte produzioni, a dispetto delle innovazioni tecnologiche, nasce solo attraverso l'intreccio preciso tra l'uno e l'altro. Allo stesso modo, la sfida della produttività del lavoro non può essere affrontata da una sola parte, ma si vince o si perde nella misura in cui nella trama e nell'ordito delle relazioni tra imprese e lavoratori si determinano nuovi punti di intersezione che possono nascere unicamente dalla condivisione dell'obiettivo comune. Il governo è pronto a fare da facilitatore e da stimolo in questo processo, in affiancamento alle parti sociali alle quali spetta il ruolo di protagonisti primari di questa fase. Così appunto il Presidente del Consiglio, ne parleremo. Parleremo dell'incontro tra governo e parti sociali alle 18:15, tra circa un'ora. Avete sentito, insomma, il governo esige che imprese e sindacati facciano qualcosa di più. Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate oggi, a margine di un'audizione alla Commissione Finanze della Camera direttore Attilio Beffer, ha diffuso i dati. Sono stati incassati 12 miliardi e 700 milioni di euro dalla lotta all'evasione, una graditissima sorpresa, e speriamo, questo per il 2011, speriamo di attestarci, ha detto l'Agenzia delle Entrate, anche quest'anno sui risultati dell'anno scorso. E poi Attilio Beffer ha aggiunto: in Italia l'evasione fiscale è pari a circa 120-130 miliardi di euro, ne abbiamo recuperati oltre 40 da quando sono direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ho la sensazione, ha detto in maniera un po' polemica ai deputati Beffra, sentendo i vostri interventi, che abbiamo preso questi 40 miliardi a cittadini onesti e vessati. Credo che non sia questa la realtà. E poi ha aggiunto Beffra: la lotta all'evasione è una guerra, come ha detto il Premier. Le disposizioni per quello che riguarda il DL sanità. Allora, sono scomparse adesso le distanze minime per le slot machine da scuole e ospedali. Ci sarà comunque un limite, una stretta sui giochi. Devo dire che le distanze limite minime erano veramente un elemento di ipocrisia. O decidi che i giochi vadano trattati come le sigarette, quindi proibiti, con forte pubblicità contraria, oppure, che tra l'altro si possono vendere davanti a scuole e ospedali, oppure decidi che siano come l'alcol, che nemmeno prevede sulle bottiglie, soprattutto i superalcolici, il limite ai minori di 16 anni e quant'altro. Era un'ipocrisia, perché non volevi fargli spot contro il gioco, però mettevi questa distanza prima di 500 e poi di 200 metri. Veramente ridicola. A cosa serve una distanza? Vabbè, torniamo a occuparci di cose serie. L'Alcoa, gli operai sono tornati a casa, avete visto, ci sono nuove tensioni a Cagliari in questo momento, ma hanno occupato il traghetto per 2 ore, hanno promesso che vi sarà una protesta al giorno. E prima notte sulla torcia spenta a 100 metri d'altezza a Porto Torres per 2 operai del Vinyls. Mi segnalate al 349-238-6666 che non ho dato i titoli di borsa, va bene. Oggi il lusso soffre, che sembra quasi una contraddizione, ma Salvatore Ferragamo perde il 5,30%, Tod's perde il 3,5%. Il motivo è dovuto dall'allarme sugli utili lanciato da Burberry's, ha detto avrà utili inferiori alle attese. Burberry's è arrivata a perdere il 18% alla borsa di Londra, ma va male tutto il lusso in Europa. Bene invece ancora le banche: UbiBanca più 2,60, Popolare Emilia Romagna più 3%, e il Banco Popolare più 2,12, la Pop Milano più 1,80. Bene anche ST Microelectronics più 3,70, Autogrill più 2,40, Enel Green Power più 2,30%. Il 2% lo guadagna anche Enel. Bene oggi tutti gli energetici: A2A più 1,68%, Eni più 0,60. E adesso due notizie che ci portano al nostro primo tema. Questa mattina a Roma, di fronte al Ministero delle Politiche Agricole, hanno protestato i ricercatori e i dipendenti dell'INRAN, che è l'ente pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione a servizio della salute dei cittadini. Perché protestano? Perché, pensate, il mese di agosto non è stato pagato. Ora, io capisco che un ente possa essere più o meno utile, ma finché in piedi pagate gli stipendi. o se no lo si chiude. Non hanno pagato gli stipendi mese d'agosto ed è a rischio lo stipendio di settembre, il tutto senza comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell'Agricoltura. L'ente ha 400 dipendenti tra assunti precari tra Roma e Milano. Le sue funzioni, perché fu già soppresso nel 2012, sono state attribuite al CRA, il Centro Ricerche Agricole, che ha 2.000 dipendenti, dipende sempre dal Ministero dell'Agricoltura, ma nessuno, diciamo, ha comunicato ufficialmente il perché della mancata erogazione dello stipendio. E poi, in tema di alimentare, passo indietro oggi dell'Unione Europea. A mio avviso è un errore clamoroso, dovuto alle pressioni dei paesi produttori di carne del nord, che vengono sempre a fare le pulce all'Italia, ma poi gli scandali scoppiano in Germania, in Gran Bretagna, in altri paesi, ma non da noi. Perché lo dico? Perché la plenaria del Parlamento Europeo ha sostanzialmente rinviato di almeno 5 anni l'obbligatorietà del chip per i bovini, quello che permetterebbe la tracciabilità completa della carne. Inoltre, per ridurre i costi amministrativi attuali, ha modificato lo schema attuale di etichettatura volontaria delle carni, che prevedeva un controllo preventivo da parte di Bruxelles. Hanno protestato sia gli italiani che gli spagnoli. E in tema alimentare, ieri abbiamo ricevuto molti sms, anche critici, perché ci eravamo posti un dubbio etico, ripeto se si può usare questa parola, sulla speculazione che sta guadagnando, solo Barclays ha guadagnato 650 milioni di euro in 2 anni speculando sui prezzi delle materie prime alimentari. Piccolo problema, speculare sull'euro o scommettere su un titolo azionario è una cosa, quando tu investi a leva, quindi utilizzando strumenti derivati, amplificando i guadagni e le perdite, quindi le variazioni verso l'alto e le variazioni verso il basso, su prodotti cereali e quant'altro, prodotti alimentari di base, stai speculando sulla possibilità che hanno centinaia di milioni di poveri del mondo di acquisire questi prodotti. I prezzi sono ai massimi e nel settore delle materie prime alimentari, e ci aveva lasciato molto perplessi la dichiarazione di Glencore, che aveva detto attenzione, l'ascesa, la crescita dei prezzi alimentari è una buona occasione d'affari. Per carità, tutto si può dire, però a mio avviso su alcuni settori, visto che poi dipende la vita fisica delle persone, bisognerebbe essere anche un po' più prudenti. Già la Germania, 3 settimane fa, in Germania molte banche avevano deciso di ridurre le loro operazioni finanziarie di speculazione sui prodotti, sulle materie prime alimentari. Alcuni ci hanno criticato dicendo che eravamo bacchettoni, che non è colpa se qualcuno vuole speculare, è libero di farlo. Va bene, e noi infatti torniamo sul tema 349-238-6666 con un'appendice che è riferita agli sprechi alimentari, perché non c'è solo la speculazione alimentare, in tempo di crisi ci sono anche gli sprechi alimentari. No, giusto per dare un'idea di dove stiano investendo le banche, perché non c'è solo Barclays, 630 milioni di euro in 2 anni guadagnati con speculazioni sugli alimenti di base, quali il grano, la soia, provocando l'accusa, a mio avviso corretta, che le banche stanno lucrando profumatamente sulla crisi alimentare globale che non hanno creato loro, ben inteso. Ci sono stati problemi di raccolti in Russia, siccità soprattutto in Russia e negli Stati Uniti, però già ci sono i problemi dovuti alla meteorologia e quindi problemi incontrollabili. Se tu ci vai sopra a speculare, è chiaro che amplifichi l'andamento. Ci stanno guadagnando molto anche Goldman Sachs e Morgan Stanley. E Glencore appunto ha definito una buona occasione d'affari il picco dei prezzi dei generi alimentari. E tra l'altro i nuovi dati della Banca Mondiale mostrano che i prezzi globali del cibo hanno toccato a luglio un massimo storico, cioè più 10% in un mese. L'estensione del coinvolgimento anche di una singola banca nei mercati agricoli aumenta quindi le preoccupazioni che la speculazione alimentare possa spingere i prezzi fondamentali tanto in alto da scatenare un'ondata di proteste. Abbiamo già visto dei casi in Yemen, ma non solo, nei paesi in via di sviluppo. Però basterebbe un dato per tagliare la testa al toro e anche alle polemiche. Uno può dire, vabbè, ma c'è sempre stata l'investimento in materie prime alimentari. Sì, c'è sempre stato, però pensate che negli ultimi anni è raddoppiato il valore dei derivati, cioè di strumenti altamente speculativi, quelli che lavorano con la leva, nei confronti degli alimenti base. È arrivato a 156 miliardi di dollari, era meno di 80 tre anni fa. 156 miliardi di dollari di speculazioni, quindi di derivati, non di acquisti veri, di acquisti con contratti futures. Altra accusa, ma attenzione, per i contadini è importante avere un contratto future, cioè sapere a quanto consegnerà il grano e la soia fra un anno. Giustissimo, non stiamo parlando del prezzo che viene fissato tra il produttore e il mediatore, cioè nella filiera alimentare. Stiamo dicendo che quando tu hai 156 miliardi di dollari che vengono mossi dalle banche, dai fondi comuni, per fare leva su questi prodotti, il contadino lì manco li vede, gli passano proprio sopra. Comunque, per non essere populista, come dicono alcuni di voi, intanto saluto e ringrazio il professor Riccardo Moro, che è docente di economia politica alla Università Statale di Milano e ha scritto spesso degli effetti della speculazione finanziaria sui prodotti alimentari di base. Buonasera, professore. Buonasera. Ecco, grazie anche, perché poi vorrei aprire una parentesi sulla speculazione che noi facciamo con noi stessi, se mi passate il termine, cioè quando noi siamo le banche di noi stessi, perché i dati sugli sprechi alimentari, nonostante la crisi, sono impressionanti. Ve ne dico solo uno, ma poi vi arriviamo. In Italia, perché valgono per tanti paesi, noi sprechiamo qualcosa come 108 chili di cibo commestibile all'anno, 110 negli Stati Uniti, 108 in Italia, 100 in Francia, 82 in Germania, 72 in Svezia. A dimostrazione che i paesi più civili sono anche quelli forse dove si spreca meno. Comunque, grazie anche a Francesco Petrelli, responsabile delle relazioni istituzionali di Oxfam Italia. Buonasera. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Tra l'altro, per pura coincidenza, abbiamo sentito prima dell'inizio del programma la campagna, che è una campagna chiaramente gratuita, con cui voi state raccogliendo soldi per la fame nel mondo. Il vostro testimone è Ilaria D'Amico. Quando la pubblicità è a fin di bene, una volta si chiamava pubblicità progresso, insomma noi la diamo volentieri. Il numero per gli sms, lo ricordo, è 45503 o 45503, 2 euro o 5 euro chiamando da rete fissa allo stesso numero. Professor Moro, allora siamo diventati bacchettoni noi? Oppure la leva finanziaria qualche effetto amplificatore ce l'ha su questi prezzi? Guardi, secondo me qui non c'è da essere appunto bacchettoni e da cercare il grande cattivo e puntare il dito d'accusa. Qui c'è da capire un poco che cosa sta succedendo in termini un po' complessivi nel pianeta, avendo in testa due così attenzioni: uno, che la questione è maledettamente complicata; due, che non tutti viviamo di fronte a queste vicende nello stesso modo. Mi spiego: nel pianeta ci sono grosso modo 1.950.000.000 di persone considerate sottonutrite, e la condizione di queste persone è immaginabile: sono estremamente più vulnerabili a malattie, complessivamente alle difficoltà della vita, hanno meno difese di chi viceversa è nutrito bene e sta bene. La mappa dei malnutriti grosso modo è sovrapponibile alla mappa dei poveri, tra virgolette. Parlare di povertà è sempre una cosa difficile, ma qui usiamo anche solo la dimensione strettamente economica, cioè quelli che vivono con meno di un dollaro al giorno. Ora, e quello che è avvenuto negli ultimi anni, in modo particolare dalla metà degli anni 2000, cioè del primo decennio, dal 2005 in avanti, è che i prezzi alimentari hanno cominciato ad andare sulle giostre, cioè a salire in modo molto repentino, salvo poi riscendere e poi risalire ancora. C'è stato un picco nel 2008, poi i prezzi sono tornati ai livelli precedenti 2007 nel giro di meno di un anno, poi sono ritornati agli stessi livelli del 2008 fino a superarli durante il 2010-2011 e sono scesi ancora e oggi sono di nuovo risaliti, come diceva lei. Ora, in passato una volatilità di questo tipo non c'era mai stato, e una volatilità di questo tipo è una volatilità che è importante nel momento in cui si riproduce sia nelle grandi borse merci come quella di Chicago, ma non c'è solo Chicago, internazionali, sia nei mercati locali in Italia, nel mercato sotto casa o supermercato, in Zambia, in Guinea, in Paraguay, in Vietnam, eccetera, eccetera, dove vivono in maggior parte quei 950.000, quel miliardo di persone che fanno più fatica. Allora, cercare di capire com'è che succede questa altalena è importante, perché per quel miliardo di persone che hanno solo sbagliato il posto del pianeta in cui nascere, diventa un problema estremamente consistente, perché se non avevano i soldi prima per mangiare a sufficienza, non si capisce come ce l'hanno adesso. Se allora, io voglio essere molto chiaro su questo. È chiaro che l'aumento dei prezzi, il frumento ha fatto più 38% negli ultimi due mesi, la soia ha fatto più 30%, il mais più 30%. Inizialmente questo scatta per la siccità, non c'entrano nulla le banche. Bisogna vedere. Allora, aspetta, perché in realtà il prezzo, anche il prezzo reale, è determinato anche nei mercati locali usando come riferimento il future a più breve scadenza. Dunque, i mercati finanziari sono lo strumento, la misura in finanziaria è lo strumento che viene utilizzato per regolare i prezzi. È abbastanza impressionante vedere la rapidità con cui una variazione di prezzo nelle borse importanti, nelle borse merci, si trasforma e dunque nelle borse finanziarie si riporta sul mercato reale locale, e a questo non corrisponde un analogo percorso inverso, cioè la siccità, che è localizzata in un'area per quanto ampia ma è comunque circoscritta, non produce un analogo passaggio verso l'alto, piuttosto che un'abbondanza di un anno di raccolto buono verso il basso dall'altro lato. Quindi lei dice, attenzione, perché siccome poi i contratti si fanno con il futures a più breve scadenza, lì l'influenza c'è. Dopo il metodo, la pubblicità, e prima di arrivare poi a Petrelli per la parte anche dei nostri sprechi alimentari, vorrei dare due cifre. La prima è il dato FAO. Nel 2011 sprecati 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo nel mondo, e tra l'altro i decessi nel mondo attribuibili a carenze alimentari sono 36 milioni, dati sempre della FAO, con 1 miliardo di persone malnutrite. Il motivo per cui teniamo assieme le due cose, cioè chi specula sulle materie prime alimentari e gli sprechi di cui noi siamo attori, è perché se ci sono 36 milioni di morti all'anno per carenze alimentari, ci sono 28 milioni di morti all'anno per eccesso di consumi, e voglio dire, sono quasi pari, no? Allora, questa è un po' la contraddizione. Vorrei sapere, dopo il meteo, professor Moro, in realtà se almeno gli agricoltori possono avere un vantaggio, o invece, come scrivono alcuni agricoltori, anche gli agricoltori restano nella trappola di chi decide i prezzi su base di leva finanziaria con investimenti molto molto alti. A chi scrive al 349-238-6666, è troppo pesante la trasmissione con questi argomenti, l'audience scende, io non so che dirle, cambi trasmissione, noi parliamo anche di questo, poi non so lei che tipo di rilevazione abbia per poterlo dire, ma insomma, a me sembra che pesante sia lo stomaco quando è vuoto o quando è troppo pieno. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento su, da un lato, speculazioni sulle materie prime alimentari e da un lato gli sprechi alimentari, giusto per non dare sempre la colpa agli altri e beccarsi anche le nostre colpe, se così possiamo dire. No, rispondo tranquillamente a chi scrive al 349-238-6666. No, non arrivano solo messaggi negativi, però chiaro che io leggo anche le critiche, avrei più difficoltà a leggere i complimenti, onestamente, però mi lascia perplesso che qualcuno definisca l'argomento pesante, non so cosa sia un argomento leggero a questo punto. Professor Moro, per concludere, volevo capire, queste speculazioni, i 156 miliardi di dollari, cioè più che raddoppiati in pochi anni, che vengono investiti in strumenti derivati, quindi ad alta leva sui generi alimentari di prima necessità, sugli alimenti base, grano, soia, mais sono soprattutto, e frumento, sono almeno un vantaggio per i produttori, per i contadini, cioè esiste In realtà no, mi permetta di dire solo questo, di uno strumento come un future, cioè uno strumento in cui io e lei ci mettiamo d'accordo adesso sul prezzo che ci scambieremo se io sono un venditore e un acquirente per un quintale di grano fra un anno, hanno bisogno, perché una cosa così è utile, nel senso che noi non sappiamo come andrà il mercato, ci mettiamo d'accordo, vediamo che cosa va bene a tutte e due, magari lei ci guadagnerà un po', magari ci guadagnerò io, a seconda che il prezzo di mercato in quel momento sia un po' più alto, un po' più basso. Con il future ci siamo protetti. Allora è uno strumento per tutelare gli agricoltori, ma tutelare tutti gli operatori del mercato e ridurre la volatilità. Nel momento però in cui il mercato finanziario si deregola, si deregolamenta, no? Quello che è avvenuto negli anni 90 fino appunto a compiersi più completamente intorno al 2005, e noi possiamo emettere, creare titoli di ogni tipo senza quasi alcun tipo di regola. Allora che succede? Succede che molti operatori che non hanno nessun interesse nei confronti del grano decidono di giocare la loro relazione finanziaria facendo, anziché un contratto di altro tipo, un contratto future su cui c'è scritto ci consegneremo il grano anche se nessuno dei due c'è il grano un mese prima, e fanno una scommessa sul futuro usando come riferimento il prezzo corrente del grano. A un mese dalla consegna stracciano il titolo e chi vince e chi perde si scambiano quel poco che corrisponde a chi vince e chi perde. Questo è un passaggio fondamentale, perché è la carta su carta, cioè un conto è stabilire il prezzo del petrolio, del gas, poi ne parleremo in questo caso dei generi alimentari, perché tu effettivamente vai a ritirare questo petrolio, questo gas, parliamo dei generi alimentari, vai effettivamente a consegnare tonnellate o bushel di grano, soia e quant'altro. Altra cosa, cioè tu lo fai solo per speculare, ma non andrai mai ad acquistare né o a vendere questo prodotto, se ho ben capito la differenza. In aggiunta, un conto è il contratto futures. I contratti derivati nascono per protezione, lo spieghiamo ogni volta, non nascono per speculazione, nascono per proteggersi. Non a caso il future, uno si protegge sul futuro, dice male che vada lo venderò a 10 e quindi so già quanto incasserò fra un anno. Ma nascono nel rapporto produttore-acquirente. Se dentro poi ci si tuffano come api sul miele le banche d'affari, perché magari in questo momento la borsa è rischiosa, i titoli di Stato sono rischiosi, speculare sull'euro non vale più, il petrolio è troppo soggetto a variabili geopolitiche, allora perché non speculare sui prodotti alimentari di base? Beh, lì il giochetto cambia, non è più il contadino che si assicura un introito certo entro un anno, ma è la banca come Barclays, ma Morgan Stanley, Goldman Sachs, le banche tedesche, che guadagna 630 milioni di euro in due anni senza che contadini da un lato né poveri dall'altro vedano un euro. Capito bene, professore? Ha capito bene, ma il punto non è tanto che ci sia un gioco speculativo, il punto è che di fatto si crea una sorta di grande domanda di titoli future, di titoli derivati legati in qualche modo a beni, a commodities agricole, alimentari, da parte di soggetti che non hanno intenzione di acquistare. Ma che significa? Questo fa alzare il prezzo di quei titoli. A quel punto noi abbiamo una situazione che è assurda, cioè un titolo per una quantità di prodotto che dovrà essere consegnata in futuro costa 120, nel momento in cui chi ha il prodotto potrebbe anche venderlo a 80. Allora, un bene disponibile subito vale di più, costa di più di un bene che sarà disponibile solo in futuro. Perché io vendo a 80? Non vendo a 80, se c'ho il future fra tre mesi a 120, io venderò certamente nel mercato sotto casa a 120. A 120. E questo, allora, è l'effetto quello spirale. Che succede è perverso, cioè mentre prima un derivato, un future, ha come causa il prezzo reale e come effetto il proprio valore, cioè è il prezzo reale che trascina, qui si è ribaltata la relazione causa-effetto, per cui è la dimensione finanziaria che trascina dietro il prezzo. Cioè il prezzo corretto sarebbe 80, quello che stai dicendo, però siccome ha magari futures a scadenza sulla soia o sul mais, perché c'è una grande domanda di titoli di carta da parte dei fondi delle banche, hanno portato il valore di quel bene a 120 fra sei mesi, chi deve venderlo e potrebbe venderlo a 80, il prezzo di mercato sarebbe 80, dice sai che c'è, siccome fra sei mesi il prezzo è 120, ma è un prezzo carta su carta, non un prezzo vero di consegna, io intanto lo porto a 120. E questa è la spirale negativa, così anche gli scettici che scrivono al 349 238 6666 hanno capito perché l'elemento speculativo, carta su carta, di gente che non andrà mai a comprare alla fine quel bene, vuole solo speculare sul prezzo intermedio, questo amplifica, in questo caso verso l'alto, il valore del bene. Solo il 30% dei contratti futures al mondo si chiude con un vero scambio, cioè che tu alla fine, fra un anno, vai veramente a comprarti il sacco di mais o il barile di petrolio. Grazie professor Moro, perché mi interessava molto capire da chi la studia la dinamica che amplifica. Prego? Mi permette di aggiungere una battuta brevissima? Sì, che questo fenomeno può avvenire anche al contrario. È vero? Perché sennò uno può dire, vabbè, allora i contadini ci guadagnano perché sale il prezzo. Ma quando scende il prezzo del future, perché tutti stanno vendendo, perché trasferiscono il loro investimento su altre categorie finanziarie, quella roba lì scende, allora scende anche il prezzo reale. Allora che cosa succede? Lei mi chiedeva cosa succede ai contadini? Che nessuno investe in agricoltura, perché se i prezzi sono così volatili, chi è che fa investimenti reali? Bravo, è un elemento ulteriore. Quando ci si mette di mezzo la finanza, oltre che a creare delle distorsioni di prezzo, cioè non quello che sarebbe il normale prezzo tra la domanda e l'offerta in un mercato, oltre a questo crea una altissima volatilità sui prezzi, guardate il petrolio, e quindi chi deve investire con produzioni che poi vengono messe a reddito e a profitto nell'arco di 4-5 anni, beh, desiste, perché se adesso vale 80, poi fra 6 mesi vale 30, poi ritorna a 70, tu non sai più come pianificare l'investimento. Grazie al professor Riccardo Moro, che appunto insegna economia politica alla Statale di Milano. Grazie a voi. No, rido perché c'è un ascoltatore che dice: l'argomento non è pesante, è solo un tappabuchi per un conduttore che non ha nulla da dire. Vabbè, infatti no. Ai ai ai. Vabbè, allora andiamo avanti invece, perché Oxfam Italia fa parte della Confederazione Oxfam Mondiale, è una delle principali organizzazioni al mondo no profit che si occupa della fame nel mondo, non solo come interventi di emergenza, ma anche e soprattutto come educazione e aiuto alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo a modificare, a diversificare per esempio l'agricoltura, non essere produzioni intensive e monointensive, a utilizzare anche sementi che fanno parte della storia di quelle popolazioni. Beh, è molto attenta la campagna, l'abbiamo ricordata, anche agli sprechi alimentari. Francesco Petrelli, noi siamo ogni tanto le banche di noi stessi, no? I fondi speculativi di noi stessi. 108 kg a testa sprechiamo all'anno in Italia, 110 di cibo commestibile negli Stati Uniti, 99 in Francia, 82 in Germania, 72 in Svezia. Pensate che lo spreco domestico in valori assoluti vale 34 milioni di tonnellate in America, 6 milioni e mezzo in Germania e la stessa cifra in Francia e in Italia. Sì, questo è un po' l'altra faccia del discorso che abbiamo appena concluso con il professor Moro. Posso dire ancora prima che lo spreco che questo mondo pieno di storture, di paradossi che dovrebbero essere risolti, fa sì che qualcuno perde, i contadini sicuramente quando c'è la speculazione finanziaria. Se immaginiamo che quasi del miliardo di persone che soffrono la fame, che sono a rischio di sicurezza alimentare, come si dice in gergo, beh, 500 milioni sono piccoli coltivatori contadini, coloro che coltivano la terra. E molto spesso, a proposito di quel gioco carta vince e carta perde, chi perde, lo sappiamo, sono i piccoli e piccolissimi produttori che utilizzano, sono dati anche questi della FAO, il 75% del loro reddito per ricomprare il cibo che serve faticosamente, a volte neanche quello, neanche con quello il loro reddito non basta, alla loro autosufficienza alimentare. E dall'altro lato, in questo mondo pieno di paradossi, che come dire, mi sembrerebbe ottimistico dire che non sono pesanti, forse sarebbe tutto più leggero se riuscissimo a risolverli, 1.300.000.000 di tonnellate di cibo viene sprecato. Perché? Perché noi produciamo cibo sufficiente per sfamare i 7 miliardi di abitanti del pianeta. Cosa accade? Accade che è il sistema, le strutture della filiera produttiva fanno sì che ci siano 1.000.000.000 di persone che a rischio di fame, ecco. Che 1.300.000.000 di tonnellate di cibo viene buttato. Attenzione, un ultimo dato, 670 milioni di cibo di questo 1,3 miliardi viene buttato nei paesi industrializzati, nei paesi cosiddetti sviluppati, 630 milioni nei paesi in via di sviluppo. Com'è possibile? Beh, per noi perché abbiamo la costipazione del frigo pieno, buttiamo quasi il 40% del cibo che il compriamo. 40%? Sì, buttiamo quasi il 40% del cibo che compriamo e siamo aiutati a farlo. Penso solo alla mancanza di leggi su quella dicitura si consiglia il consumo preferibilmente. Alcuni paesi europei, per esempio l'Inghilterra, l'hanno deciso di fare una legge per cambiarla, che ci induce a buttare cibo. Sì. Ma noi tendiamo a costipare il nostro frigo. E come mai 630 milioni di cibo buttati nei paesi in via di sviluppo? Perché mancano magazzini di stoccaggio, la catena del freddo e così via. Quindi è un paradosso. Cioè noi sprechiamo perché riempiamo troppo il frigorifero e poi buttiamo via. E nei paesi in via di sviluppo manca invece la possibilità di mettere da parte e quindi da lì lo spreco. Dopo il traffico, prima di arrivare alla borsa per le vestali del programma, vorrei capire che cosa concretamente possiamo fare, perché a mio avviso manca in Italia una campagna, in Italia poi non solo negli altri paesi, anche di sensibilizzazione. Lei ha ragione sulla data di scadenza, poi noi sappiamo che magari il cibo è buonissimo anche nei 2-3 giorni successivi. Vediamo sprechi assurdi nei supermercati, sprechi assurdi anche diciamo negli esercizi commerciali, bar e ristoranti. Ci sono iniziative di volontariato locale che vanno a recuperare questo cibo e darlo ai poveri, ma sono una goccia nel mare. Mi sembra veramente un'operazione da di tafazzismo con la crisi che c'è e la fame che c'è in altre parti del mondo, avere 28 milioni di persone che muoiono per eccesso di consumi alimentari. Di nuovo in diretta, prima di arrivare ai mercati. Allora, volevo concludere la parte che riguarda quando noi siamo gli speculatori di noi stessi, con Francesco Petrelli, responsabile delle relazioni istituzionali di Oxfam Italia. Una campagna di sensibilizzazione. Voi avete la campagna in corso per raccogliere soldi, appunto, con il numero, ve lo ridò volentieri, 45503, con un sms per combattere la fame nel mondo. Però una campagna anche contro gli sprechi, l'esempio della mela che avete fatto, no? Sì, 45503 è una delle due cose che noi possiamo fare per occuparci anche dei nostri mercati, quelli sotto casa. Perché noi lavoriamo con quei piccoli produttori di cui parlavo prima, quelli che producono cibo e rischiano di morire di fame. Sono 8 progetti in 8 paesi del mondo con cui intendiamo sostenerli nella loro capacità di essere protagonisti del loro mercato, di un mercato più giusto, perché c'è un problema di regole. Ma noi cosa possiamo fare in realtà? Noi possiamo adottare alcuni comportamenti individuali, come famiglia, comunità, nel nostro luogo di lavoro. Beh, ridurre gli sprechi è facile, o sarebbe facile anche se fossimo aiutati, per ridurre quel 40%. Mi dia 2-3 consigli che poi lo chiudiamo. Ma anche in cucina è molto banale, perché il clima, l'ambiente sono legati. Se noi invece di riempire la pentola di acqua la riempiamo a metà, o semplicemente se noi riuscissimo anche ad utilizzare il cibo in maniera più appropriata, a comprare il cibo di stagione, che non vuol dire che io rinuncio al cibo esotico, significa che noi ritorniamo a consumare quello che si produce nei mercati locali, come è sempre stato fino a poco tempo fa. E poi sì, adottiamo anche alcune cose che riguardano la nostra cucina e i nostri elettrodomestici. Faccio un solo esempio: il forno a microonde, il 60% dell'energia è dovuta al LED che è sempre acceso, non a cucinare cibi. Noi diamo alcune indicazioni, alcune regole, anche di dieta. Anche qui non c'entra essere vegetariani o meno. Sappiamo da ricerche precise, quella che abbiamo fatto, che rinunciare a un pasto al giorno per un pezzo di mondo, quello che rinunciare ad un piatto di carne una volta a settimana, significa riuscire a fare qualcosa come meno 3.700.000 macchine che circolano al giorno, perché la carne ha un altissimo impatto in termini di energia, di uso di acqua. Certo. Un mezzo chilo di ragù ci vogliono 6.000 litri d'acqua, un piatto di lenticchie e di fagioli, che fa bene ed è buonissimo, ci vogliono 600. Applichiamo queste regole. A me piace molto quella che può sembrare una banalità della mela, cioè che la mela messa in frigorifero, tutta la frutta messa in frigorifero, tanto il frigorifero ce l'hai acceso, dura molto più a lungo, non butti via, c'è uno spreco enorme. Pensate che una mela su 6 finisce in discarica, generando tra l'altro gas serra nocivi. Le emissioni prodotte dai 5 miliardi e 300 milioni di mele buttate in un anno in Brasile, India, Spagna, Filippine, Regno Unito e Stati Uniti sono pari alle emissioni che si ottengono bruciando 10 milioni di barili di petrolio. Io nel ringraziare Francesco Petrelli, responsabile delle relazioni istituzionali di Oxfam Italia, do anche una risposta a chi dice ma insomma dov'è la borsa? Allora, o chi fa la battuta, se ti interessa l'agricoltura vai Linea Verde sulla RAI e lascia stare Focus Economia. Vorrei far notare che il programma si chiama Focus Economia, non Focus Finanza, e tutti sapete che cosa vuol dire la parola economia, no? La gestione delle risorse, no? Delle cose. Per cui attenzione a sbilanciarvi magari di alcuni ascoltatori in frasi un po' ardite. Esiste anche Wikipedia, grazie, la borsa e poi gli altri temi del programma. Borsa oggi soprattutto a Milano in rialzo dello 0,84%, Parigi più 0,89%, Londra negativa meno 0,02%, Francoforte più 1,34%. Ancora una nota su... Vedo altri sms, attenzione, la pubblicità che c'è durante il programma, come in tutti i programmi, è del tutto irrilevante per chi conduce, per tutti quelli che conducono. Non è... viene scelta dal gruppo, ma non mi interessa se va contro quello che dico, ma quando mai mi è interessata la pubblicità in questo programma in 12 anni che lo conduco. Più 0,80% dicevo, bene, Steam Microelectronics più 3,80%, Popolare Emilia Romagna più 3,30%, Ubibanca più 2,80%, Come Autogrill 2% Enel e anche Generali l'1,70% è il rialzo di Enel Green Power e del Banco Popolare, ma anche della Popolare Milano. Male oggi il lusso, meno 5% Ferragamo, meno 3,5% Tod's, meno 1,70% Luxottica, meno 1,5% Monte dei Paschi, meno 1,40% Ansaldo e anche Exor. Eleonora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Tu sprechi molto? Moltissimo, purtroppo. Ecco, allora attenzione anche tu, perché tutti noi possiamo fare qualcosa su questo, anche e soprattutto chi scrive, alcuni di quelli che scrivono. Allora, Ferragamo perde il 5% perché ha lanciato un profit warning, ossia un avviso di utili più bassi del previsto, il colosso del lusso Burberry's. Esatto, infatti questo ha penalizzato i titoli del lusso non solo italiani ma di tutta Europa, è andato male il lusso appunto quotato in tutte le varie piazze, da Hugo Boss alle aziende francesi. A Piazza Affari, come hai detto tu, Salvatore Ferragamo ha perso oltre il 5%, del resto Burberry's ha fatto un po' tremare gli investitori quando ha indicato che probabilmente a fine anno le stime saranno peggiori di quanto presupposto in passato, proprio a causa dell'andamento debole delle vendite retail, cioè le vendite che avvengono nei negozi. E quindi male anche appunto Tod's, meno 3,5%, Luxottica meno 1,70%, Monte dei Paschi oggi qualche rialzo, meno 1,5%, bene le altre banche che in mattinata andavano peggio in realtà. Eleonora. Sì, infatti il quadro si è completamente girato nel pomeriggio. In mattinata andava bene solamente la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che comunque ha chiuso con un progresso del più 3,3%, il migliore tra gli istituti bancari. Quest'oggi c'è un'intervista proprio sul Sole 24 Ore al numero uno dell'istituto, nel quale appunto viene indicato che migliorerà il core tier 1, comunque miglioreranno gli indici dell'istituto, che indicano appunto la solidità dell'istituto sia nel corso del 2012 che nel corso del 2013, quindi questo ha sostenuto i titoli. Poi 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa. Eleonora Micheli, dicevamo, oltre al lusso oggi male, Monte dei Paschi qualche realizzo, le banche altalenanti e poi il caso della Popolare Emilia Romagna, che appunto dopo l'intervista di oggi sul Sole 24 Ore, vanno bene oggi tutti gli energetici. A2A in primis. Sì, A2A diciamo che ha beneficiato comunque di speculazione. Domani è previsto l'incontro tra Bruno Tabacci, l'assessore al bilancio del Comune di Milano, e il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. In verità l'incontro era fissato da tempo, ma ovviamente si tende a scommettere che siano affrontati temi caldi come in primis il risico del settore energetico. Sempre più si parla infatti della possibilità possibilità che venga creata una multi-utility del nord dove avvenga un'aggregazione tra 2A ed Iren, soprattutto alla luce del fatto che è avvenuta la fusione tra ACE Gas ed ERA. Vedremo che cosa accadrà domani e quali saranno le notizie che emergeranno. Eh sì, bene, tutti gli energetici, debole Telecom Italia invece su notizie molto molto tecniche, meno 0,77%, secondo quanto riferito da alcuni giornali. Infatti Telecom, ma anche Vodafone e Wind dovranno pagare per proteggere i televisori italiani dalle interferenze che saranno provocate dal lancio delle reti mobili di quarta generazione. Bene anche Edison, ed è questo il prossimo tema. Nel ringraziare l'onore Micheli do anche i migliori e peggiori in assoluto. Oggi Cell Therapeutics più 31%. Eleonora, ci sei ancora? Sì, sì. Perché Cell Therapeutics, sono arrivate notizie anche qui sulla società. Sì, in verità il titolo è volato così perché ha avviato in Europa il lancio di un programma commerciale. Comunque è una società molto piccola, quindi ogni notizia molto positiva finisce per far muovere il titolo. Poi si sono risvegliate le RCS e oggi è in corso il CDA, il Consiglio di Amministrazione straordinario, e quindi si scommette che emerga qualche notizia. Per ora su chi ha comprato Rizzoli Corriere della Sera in queste settimane, più 17,5%. Bene anche Risanamento più 14%, Bastoggi più 7,60%, fronte opposto Fondiera Sai meno 5,20% e Ferragamo, l'abbiamo detto, meno 5%. C'è poi la vicenda Edison, il titolo ha guadagnato oggi in borsa alla fine, bene gli energetici, ma il titolo ha guadagnato anche più della media, e mi riferisco a un 3% di guadagno in borsa, 3,5% per una notizia 3,80%. Che ha a che fare con proprio una causa legale vera e propria. Siamo in collegamento con il responsabile della parte legale di Edison, avvocato Marco Lorefice, capo ufficio legale Edison. Buonasera. Salve, buonasera. La sentiamo leggermente male, comunque speriamo. Pronto? Ecco, adesso molto meglio. Bene. Il titolo si è mosso perché voi avete vinto una causa con l'operatore del Qatar su un contratto long term di fornitura, vuol dire contratti appunto a lungo termine, LNG, di gas naturale. Se ho ben capito, per voi vi sarà un vantaggio di 450 milioni di euro sull'EBITDA, quindi sugli utili prima di pagare le tasse e gli interessi. Ma come mai? Come mai? Perché c'è stato per la prima volta in Italia un terzo indipendente, un soggetto terzo indipendente che ha deciso che il prezzo di importazione del gas dell'Edison in Italia era out of the money, quindi c'era la necessità di ristabilire l'equilibrio contrattuale. Quindi, è importante perché farà anche precedente, se ho ben capito. Cioè voi avevate un contratto, con il Qatar per importare del gas, no? Ce l'ha ancora. Ce l'ha ancora, certo. Qual era l'oggetto del contender, del lodo arbitrale? Era la revisione del prezzo. E voi perché chiedevate una revisione del prezzo? Beh, perché non navigavamo sicuramente nell'oro, sicuramente era le condizioni del mercato si erano deteriorate, per cui c'era la necessità di rivedere un prezzo di un contratto che per noi era out of the money. Ecco, ma come mai vi ha dato ragione la Court of Arbitration della Camera Internazionale del Commercio? Ci ha dato ragione anzitutto perché abbiamo fatto un lavoro eccellente nel convincere il Tribunale delle nostre ragioni, e cioè sostanzialmente che il mercato era cambiato. Le condizioni di mercato sono cambiate e poi che il prezzo non era più un prezzo realistico, competitivo direi. Ecco, visto che vale 450 milioni di euro questa revisione, le chiedo da avvocato, e al di là del caso vostro, questo creerà precedente? Cioè la maggior parte dei contratti del mondo energetico, gas ma anche petrolio, sono contratti chiaramente a scadenza, no? Che si firmano e vige sopra tutto il take or pay, cioè o lo compri o lo paghi. Però in questo potrebbe cambiare la giurisprudenza per il futuro? No, perché ogni decisione è frutto del suo contratto. Per dire questo bisognerebbe conoscere gli altri contratti, sono informazioni che non sono note, non sono dei contratti standard. Quindi sicuramente fa giurisprudenza per il nostro rapporto, ma per gli altri non si può dire, perché qui siamo in un settore molto specifico dove ogni operatore, ogni importatore ha il suo contratto e le sue condizioni che gli permettono o meno di chiedere una revisione del prezzo. Quindi generalizzare in questo caso non è molto proficuo. Non sarebbe corretto, quindi si valuterà di caso in caso. Certo è che visto l'andamento dei prezzi nell'ultimo periodo, importante quanto ha deciso, importante per voi e anche per il titolo, ma in generale, anche perché, se non ricordo male, è una delle prime volte che si dà torto al paese produttore, o sbaglio? No, allora in Italia sicuramente a memoria sì, non c'erano state sentenze di questo tipo, almeno di questa portata. Tenga conto che il contratto è relativo quasi al 10% del gas importato in Italia, quindi un quantitativo estremamente significativo. Di tutto il gas importato? Di tutto il gas importato, certo. Il terminale di Rovigo ha una capacità di 8 miliardi, di cui l'Oedis utilizza 6,4, i consumi attualmente in Italia sono inferiori agli 80 miliardi. No, diciamo che in Spagna ci sono stati sicuramente casi analoghi, dei precedenti, sì, dove il produttore ha perso, come anche ha vinto, no? Quindi diciamo che la casistica va un po' in un senso, va in un altro, le figlie delle situazioni dei mercati e soprattutto della tempistica quando il contratto è stato rinegoziato. Ecco, mi dica una cosa, noi siamo molto contenti per Edison, ma dal punto di vista del consumatore di gas, cioè noi tutti, questo, visto che questo contratto si applica sul 10% di tutto il gas importato in Italia e visto che appunto voi avrete un beneficio di 450 milioni di euro, questo poi ce lo tradurrete anche nella bolletta? Bollette non le facciamo. No, dico, lo vedremo nella bolletta? Ma guardi, le spiego un concetto. Questa revisione si applica retroattivamente, nel senso che le Edison ha iniziato questo arbitrato nel 2011, per cui nel frattempo, questo pagamento è retroattivo, per cui nel frattempo il mercato, l'Edison ha immesso liquidità finanziaria sul mercato perché ha venduto a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto. Quindi l'Edison ha già abbassato i suoi prezzi. Certo, se domani ci saranno ulteriormente dei ribassi nei prezzi di importazione, questi sicuramente saranno anche a vantaggio del mercato, ma in questo caso la situazione va a sanare una situazione pregressa. Cioè voi avevate già abbassato i prezzi? Sì, certo. Ah, no, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto tutto qua, no? Perché, perché sono il mercato italiano residenziale, sono una parte del mercato italiano. Poi ci sono i grandi consumatori di gas, che sono naturalmente le centrali elettriche, e poi il settore industriale. Grazie. Prego. Complimenti a Edison, grazie al capo dell'ufficio legale Marco Lorefice. Adesso ci occupiamo invece dell'incontro tra governo e parti sociali, con le dichiarazioni anche molto nette di Mario Monti. Alcuni messaggi ancora sul tema di apertura, da un lato la speculazione assurda a mio avviso sulle materie prime alimentari, dall'altro il risparmio e quindi gli sprechi alimentari, ripeto 108 kg a testa buttiamo via ogni anno di cibo commestibile che non usiamo, con un danno economico per noi, con un danno anche per gli altri. Ancora chi mi consiglia di andare a linea verde o alla prova del cuoco? Vabbè, adesso ci faccio un pensierino. È un mondo difficile e vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto. Felicità momenti, ma felicità tanta. Insomma, un mondo difficile per noi che ogni tanto abbiamo degli ascoltatori particolarmente polemici, ma mondo difficile mica tanto per Bradley Birkenfeld, l'ex manager di UBS che ha collaborato con le autorità. La notizia ve l'ha data in anteprima il nostro GR delle 18 con le autorità americane. Pensate che ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate americane 104 milioni di dollari per la sua collaborazione. Non so, Attilio Beffra, visto che oggi ha presentato i dati sul contrasto all'evasione fiscale, magari anche in Italia si potrebbe applicare il modello, no? Se tu riveli segreti come quelli dell'UBS, vieni pagato 104 milioni di dollari per la sua collaborazione nell'ambito delle indagini per frode fiscale. È una collaborazione in cui lui ha spiegato come la banca UBS aiutava migliaia di americani a evadere le tasse. e UBS magari lo farà solo con gli americani, per carità, però insomma l'accordo con la Svizzera, Mario Monti, che fine ha fatto? Cioè Bruxelles doveva intervenire e poi è tutto scomparso nel nulla, l'accordo con la Svizzera per avere una tantum di tasse pagate da chi lì ha portato i capitali, non so, potrebbe essere anche quella un'occasione per reperire risorse per lo sviluppo. ...18-19 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, stanno uscendo le prime agenzie dall'incontro governo-parti sociali, sta parlando la segretaria del CGIL Susanna Camusso, ma anche quello della CISL Raffaele Bonanni, e in mattinata già Monti si era espresso sull'obiettivo di questo incontro. Il segretario CGIL Camusso: si cominci col detassare le tredicesime, la crescita non dipende dalle parti sociali e noi possiamo fare la nostra parte ripartendo dall'accordo del 28 giugno 2011, estendendolo ed applicandolo nei rinnovi contrattuali. Il numero uno della CISL, Raffaele Bonanni: siamo disposti a lavorare insieme sugli elementi che ostacolano la maggiore produttività per alzare i salari oggi troppo bassi. La UIL, nello stesso tenore, la crescita passa per la detassazione dei salari e delle pensioni. E Mario Monti questa mattina, inaugurando il Salone del Tessile Milano Unica, sul cuneo fiscale era già intervenuto, ha detto: è importante guardare bene dentro il cuneo fiscale. Guardiamoci bene dentro il cuneo. È importante guardare bene dentro a quel cuneo, che rappresenta certamente un elemento molto importante se vogliamo dare più competitività alle imprese italiane. Naturalmente dentro a quel cuneo ci sono anche i risultati a termine di politiche che in un passato lontano spesso, i governi hanno fatto nell'intento genuino di aiutare le imprese e il mondo del lavoro, prendendosi carico di oneri che mettevano a carico della collettività e di coloro che non erano ancora nati, e che hanno molto aumentato il debito pubblico e il disavanzo pubblico italiano. Detto questo, è anche la gestione corrente della politica economica che deve essere mobilitata. Non basta attribuire una parte del cuneo ad errori del passato, dobbiamo ad ogni costo ridurre quella parte del cuneo, quella parte che sta a numeratore del costo del lavoro per unità di prodotto, che è il divario tra il lordo e il netto, e su questo lavoreremo. Ma la produttività è qualche cosa su cui occorre in questo momento concentrare l'attenzione. Beh, Monti che ha bacchettato le parti sociali anche sul cuneo, il passaggio era un po' sibillino, ma diceva: attenzione, se ci sono così tante tasse sul lavoro, tra quello che uno costa all'azienda e quello che poi uno incassa in busta paga, è perché nel passato lo Stato si è fatto carico anche di sovvenzioni, di aiuti che poi, no, vengono trasferiti sotto forma di tasse. Sulla produttività adesso chiederò a Lumi, perché non ho ben capito nemmeno io, però il premier Mario Monti, sempre in mattinata, aveva detto: ci aspettiamo che le imprese e i sindacati facciano qualcosa di più, anche qui esigiamo che si faccia di più. Noi ci aspettiamo, vorrei dire esigiamo a nome del paese, dei cittadini e dell'interesse generale, che imprese e sindacati riescano a fare qualche cosa di più con il loro diretto e congiunto impegno. Per avere successo in questo campo serve lo sforzo congiunto e cooperativo delle parti sociali, che deve prevalere su particolarismi e contrapposizioni di tipo ideologico, ma sono sicuro che lo otterremo, perché questa crisi ha accresciuto in tutti il senso dell'appartenenza a qualcosa di più grande della singola parte. Come voi tutti sapete e mi insegnate, il tessuto è fatto di trama e ordito, Io credo che in ultima analisi forse sia ancora così in molte produzioni, a dispetto delle innovazioni tecnologiche, nasce solo attraverso l'intreccio preciso tra l'uno e l'altro. Allo stesso modo, la sfida della produttività del lavoro non può essere affrontata da una sola parte, ma si vince o si perde nella misura in cui nella trama e nell'ordito delle relazioni tra imprese e lavoratori si determinano nuovi punti di intersezione che possono nascere unicamente dalla condivisione dell'obiettivo comune. Il governo è pronto a fare da facilitatore e da stimolo in questo processo, in affiancamento alle parti sociali alle quali spetta il ruolo di protagonisti primari di questa fase. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Insomma, Monti già stamattina aveva fatto capire, insomma, esigiamo di più, tutto bene, Angeletti gli aveva risposto, beh, in un paese normale è il governo dover fare di più. In realtà, secondo me, fa bene il Presidente del Consiglio a chiedere alle parti sociali, sindacati e datori di lavoro di fare uno sforzo ulteriore. Non ho ben capito il passaggio sulla produttività, e cioè... Insomma, la produttività è questo mantra che viene sempre alleggiato, no? Allora, Monti ha detto nel passato le tasse sul lavoro sono state anche frutto di modi per proteggere il lavoro, sì, di aiuti verso il lavoro, ma la soluzione qual è? Dunque, io credo che quando parliamo di produttività parliamo di un dato che sappiamo che da tanti anni purtroppo l'Italia è in discesa su questo fronte, declinante su questo fronte, e parliamo di produttività del sistema, tipo per esempio il costo dell'energia, che per le imprese, come sappiamo, è altissimo, ma credo che in questo specifico caso, Monti non l'ha detto esplicitamente, ma il suo riferimento sia a un invito alle parti sociali ad abbassare costo del lavoro per unità di prodotto, che è uno dei dati che in questo momento ci allontana dalle tendenze, sì, però, di altri paesi. Guido, scusami, però il costo di lavoro per unità di prodotto si abbassa in tanti modi, uno su tutti, abbassando le tasse sul costo del lavoro. Questo, cioè, è uno dei modi. Non si può chiedere in questo momento il modello greco per cui per essere più competitivi svalutiamo i salari, perché poi già abbiamo fatto, infatti, domani uscirà il rapporto sui consumi, abbiamo visto la COP, orribili per i consumi, qua non consuma più niente nessuno. Certo, ma devo dire che Monti infatti a un certo punto ha detto che non intendeva nel senso di una moderazione dei salari, ma una modernizzazione del paese. Quindi credo che, diciamo, i punti di attacco siano due. Uno è quello che ricordavi te, cioè il discorso di abbassare le tasse sul lavoro. In questo deve fare di più il governo, però, perché se vuole accompagnare davvero uno sforzo delle parti sociali che a loro volta mettono in piedi dei meccanismi contrattuali che favoriscono l'aumento della produttività del lavoro, dall'altra parte il governo deve mettere delle risorse in campo per abbassare le tasse su chi produce. E quindi questa è la scommessa vera. Temo purtroppo che da questo punto di vista non ci siano risorse sufficienti, o le risorse siano molto poche. Un'ultima battuta: Monti ha anche ammesso questa mattina, beh sì, certo, abbiamo contribuito anche noi con la nostra manovra ad aumentare il calo del PIL, perché nel breve termine le manovre fatte di tasse e di tagli hanno un effetto ulteriormente depressivo. Ma cos'è? È un Monti che sta quasi scrivendo il suo lascito in questi giorni, tra Cernobbio e Bari, Cernobbio e oggi il Salone del Tessile? Ma secondo, non so se sia un lascito politico o già un bilancio o un preconsuntivo, però insomma, secondo me Monti fissa, diciamo, mette dei paletti su quello che è il bilancio del suo governo. E da questo punto di vista sapevamo tutti, lo abbiamo visto, l'abbiamo verificato, che ovviamente una manovra incentrata in particolare sull'aumento delle tasse portava evidentemente in una situazione già di recessione, portava ad aggravare la situazione. Monti l'ha voluto dire forse esplicitamente, forse anche nella speranza che, siccome lui è convinto e ci ha detto nei giorni scorsi che la ripresa arriverà nel 2013, di giocare su questo lasso di tempo poco, diciamo, che tra l'altro coincide con ciò che è rimasto della legislatura e con ciò che è rimasto dal punto di vista dell'operatività del suo governo. Grazie, grazie a Guido Gentili, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.